anche per sentier presso le gel, il vetturare sempre l'aria allegro va. Sali cavallino e vai lassù, sempre più su, aiuterò. Forza cavallino che il mio cuore l'aspetta ancora un puro amore. E sulla montagna riposerò il bel cavallino fra cielo e fior, io stringerò il mio bel tesoro. Dall'alpe in fiore porto sul cuore, io voglio dare all'amorin che aspetta giù la frusta che io schiocco già m'annuncerà. Trotta cavallino vai laggiù, sempre più giù da un altro amore. Vola cavallino che anche te sei come me, vuoi libertà. Giunti che saremo riposere, non t'arrabbiare che solo tu sei il mio tesor cavallino d'or. Arrabbiare che solo tu sei il mio tesor cavallino d'oro.